Mi sia permesso soltanto di far notare come con oggi si inizia una svolta, c'è un cambiamento nel nostro seminario quanto a ciò di cui si parla. Fino a ieri i problemi sono stati fondamentalmente, ma non esclusivamente, problemi istituzionali, studium generale, istituzioni imperiali, istituzioni papali, rapporto tra questi due modi di fondare lo studio, problemi dell'insegnamento, problema che credo molti di noi si porteranno come oggetto di riflessione, problema delle arti, le scuole e le facoltà delle arti, problemi dunque istituzionali, il quadro entro il quale si svolgeva la vita dell'università. Da oggi ci accosteremo a questa vita, guardando modi e forme di insegnamento, teologia questa mattina, teologia, se io ho ben capito, nelle università italiane del 400, questa sera i problemi dell'umanesimo e nelle università tedesche, e avremo poi ancora domani gli uomini delle università, perché gli studentes pauperes sono prima studenti e poi pauperes. Quindi il nostro quadro in questo modo si conclude. Mi permetto sin da oggi, e a nome anche del collega Else, di pensare a domani pomeriggio, quando avremo quello che in italiano chiameremmo la discussione generale, voi tedeschi direste la Gesamtdiskussion o la Schlussdiskussion, perché domani pomeriggio in un certo senso dovremo concludere con problemi, con risultati, con riflessioni che ognuno di noi porterà poi a casa per ulteriori riflessioni e sviluppi. Mi fermo qui per non rubare tempo al professor Padre Piana, che, come si diceva ieri, conosce, beato lui, meravigliosamente questi individui, questi studi, nel senso di enti e lavori delle università italiane, soprattutto per l'aspetto e il piano teologico. La parola al Padre Piano. Anzitutto vorrei precisare una cosa. Il titolo della mia relazione è quello contenuto nella prima bozza o nel primo programma, cioè insegnamento della teologia nelle università italiane alla fine del Medioevo, anziché il titolo che vedo nell'ultimo programma, la Facoltà Teologica di Firenze nel 4 e nel 500. Questo cambiamento è avvenuto per ragione di una telefonata fugace nella quale forse io non mi sono espresso o non sono stato compreso, insomma, nella fretta della comunicazione. E allora rimane il primo titolo. Mi propongo di svolgere due punti. Il primo è quello di dichiarare lo status quo delle ricerche e degli studi sulle facoltà teologiche in Italia alla fine del Medioevo. Il secondo è quello di presentare un tipo di ricerca, il più recente, sulla facoltà teologica di un luminoso centro di cultura in Italia. Ecco la prima domanda che può essere proposta. Che cosa è stato fatto per la storia delle facoltà teologiche? Seguiamo un ordine geografico, dall'alto in basso, dal vertice alla base, come si direbbe oggi lì, cominciando da Pavia. È noto che la fondazione dello Studium Generale Pavese si ebbe con diploma di Carlo IV, re di Boemia e imperatore di Germania, il 13 aprile 1361. Signora Letizia, io ho voluto confrontare i miei dati con i suoi e vedo che in linea generale conviviamo. Cioè, per vedere se nelle mie carte non ci fosse qualche imprecisazione, perché lei si fonda sopra fonti originali, mentre io mi sono dovuto accontentare piuttosto di fonti, cioè di notizie nelle monografie. Questo onore, la Pavia, già capitale del regno longobardo, era stato sollecitato da Galeazzo Visconti. Bonifacio IX, nel 1380, con la sua autorità, riconosceva lo studio pavese e la facoltà di impartire l'insegnamento in sacra pagina, cioè nella teologia, in diritto canonico e civile e in arti e medicina, concedendo ai maestri e agli scolari gli stessi privilegi ed immunità di cui godevano i maestri e gli scolari, soprattutto in sacra pagina a Bologna e a Parigi. Sopra questa immunità è stato fatto un accenno ieri, specialmente per gli studenti di teologia. Forse è bene insistere maggiormente sopra questo punto. Forse qualcuno me lo potrà domandare. E concedendo la facultas docendi, dopo l'esame presieduto dal vescovo diocesano come cancellario dello studio, avrò forse occasione di spiegare quella preferenza che favoriva gli scolari in sacra pagina. La fonte principale dello studio di Pavia è costituita dai 4 volumi di Rodolfo Maiocchi, documenti raccolti nell'archivio latarile di Pavia, precedentemente da un secolo fa, 1868, erano stati pubblicati documenti e memorie dello studio di Pavia. Preso di singolare di quest'opera, anche se insufficientemente documentata secondo la metodologia moderna, e la compilazione dei rotoli col nome dei lettori, con l'insegnamento, la materia dell'insegnamento, mentre il Maiocchi nella sua ricerca e nella sua pubblicazione seguì un ordine cronologico. In queste due opere, come nella monografia di Pietro Vaccari, con carattere piuttosto espositivo, quasi divulgativo, contento di una semplice bibliografia finale, la documentazione riguardante la teologia è frammista con le altre facoltà e non rappresenta certamente una parte preponderante, anche perché lo studio pavese si affermò per antica tradizione dello studio del diritto, i cui statuti furono editi dal Zürbini a Lucerna nel 1898. Pur non rimanendo insensibile questo studio, alla fine del Medioevo, alla nuova cultura umanistica come hanno dimostrato il Bertalot e il Corbellini. Forse io sono uno degli unici superstiti che hanno conosciuto il Bertalot, Giudice Bertalot. Conosciuto ripetutamente alla Biblioteca Vaticana. In definitiva, l'unico studio riservato esclusivamente alla teologia è stato quello del Volta, la facoltà teologica, nei primordi dello studio generale di Pavia, pubblicato nell'archivio storico lombardo del 1898. Attraversando il Po, siamo a Piacenza, il cui studio generale nel 1398 al 1402 fu soltanto una temporanea emigrazione dello studio pavese, illustrato dalla Valli Rocca, vi è una bolla di Innocenzo IV del 1248 che concedeva a questa città lo studium generale. Ma il Denecle ha interpretato, e il maestro Tommaso Domenicano, ha interpretato questo studio generale non come un'università, ma come uno studio superiore. Gli studi che si trovavano presso le cattedrali, eccetera, tutto qualificato. Alla fine del Medioevo, vi fu però il collegio teologico, con statuti composti nel 1467, che si ricollegano però a studi precedenti, purtroppo non giunti a noi. Furono pubblicati da Antonino Arata nel 1929. Si ha l'impressione che convalida l'opinione dell'Erle. Non una facoltà, né di teologia, né di altra disciplina, ma collegio teologico composto da un determinato numero di maestri al quale collegio si potevano presentare gli aspiranti alla laurea in teologia, quella forma che è sopravvissuta fino alla bulla di Costituzione di Papa Pio XI del 1600. Prossima a Piacenza vi è Parma, che ha una tradizione, che una tradizione locale ritiene con tenacia la prima università d'Italia per ordine cronologico. Università costantemente osteggiata ed anche soppressa dai vescovi di Milano, signori di Parma, per favorire la università più prossima loro e sotto un maggiore loro dominio, cioè quella di Pavia. Sottrattesi al governo visconteo nel 1404 e ribellatesi alla tirannia dei Terzi nel 1409, Parma ricostituì lo studio col favore degli estensi che erano diventati i signori di Parma. La storia di questa università fino al primo decennio del 400 è stata scritta da Giovanni Mariotti, 1888. In queste date ho visto una certa convergenza verso l'88 del secolo. Mi sono domandato per quale motivo questa convergenza, ripetizioni di date. Credo che si debba attribuire al fatto dell'ottavo centenario dell'Università di Bologna, celebrazione la quale avevo promosso in antecedenza immediata e un interesse sopra le università italiane. E il Guarassini si è reso benemerito pubblicando o ripubblicando in parte i diversi statuti del nel corpus totiforum all'istituto parmenti secolo XV. Purtroppo in questo corpus sono sconosciuti gli statuti della facoltà teologica di Mariotti. Il Mariotti si era proposto di proseguire le sue ricerche per il secolo XV e di pubblicare un secondo volume. Ma il brav'uomo, caduto nella trappola della vita e dell'attività politica, fu anche senatore, non poté condurre a termine il suo disegno. Alla distanza di quasi 80 anni, questo compito se ne ho assunto chi vi parla. Col volume Ricerche sulle Università di Bologna e di Parma nel secolo XV, pubblicato nel 1963. E pubblicando in questo volume 240 lauree, cui devono aggiungersi le 83 nel volume Nuove Ricerche del 1966 e le 68 nella rivista fiorentina Rinascimento, sempre nel 1966. Era questo volume Nuove Ricerche già quasi composto e prossimo alla stampa, quando, per mostrando un nuovo notaio dell'archivio notarile di Parma, incontrai un altro nome impensato, e tante forse se ne troveranno ancora sfuggite alle mie ricerche. Tutte queste lauree sono state conosciute nelle piste dei roditi dell'archivio notarile, perché nell'archivio dell'Università di Parma nulla è stato conservato, almeno per la parte annitica. Confidenzialmente vi dico che questa ricerca sui roditi notarili è stata ed è sempre una ricerca tremenda. Ogni studio presenta le proprie difficoltà, ma ricercare una laurea in mezzo a un cumulo, a una finta di documenti più disparati, testamenti, livelli, comprovendite e di qualunque genere di atti rogati dai notai, è una cosa piuttosto che richiede un po' di pazienza. Nella documentazione scoperte o almeno conosciute, le lauree in teologia sono assai tardive in confronto con quelle delle altre università: diritto civile e canonico, arti e medicina. La prima laurea in teologia risale al 1460. Sempre col beneficio alimentario, perché uno studioso potrà trovarne qualcuna anteriore. Quelle che sono risultate anteriori. Il primo accenno all'insegnamento della teologia si ha nel 1448, quando la magnifica comunità di Parma dispose che al maestro Giovanni da Tivoli, francescano, fosse corrisposto un salario perché deputato a lettura di sacre teologie ex moralium. Vorrei sottolineare questo moraglio, in quanto non è un insegnamento proprio esclusivo della teologia, ma anche delle morali. Ciò che entra può entrare nella facoltà di arte. Il salario, cioè il Gualattini, ha dubitato sulla validità di questo accenno a provare l'esistenza di una facoltà teologica a Parma in quell'anno, perché la teologia poteva essere un insegnamento complementare della facoltà di arti. Non insisto su questo particolare, che potrà inserirsi in un contesto più generale, al quale forse accennerò più avanti. Sempre nella regione emiliana, altra università medievale è quella di Ferrara. la sua fondazione si deve attribuire all'iniziativa di Alberto d'Este, signore della città, e alla benevola accondiscendenza di Bonifacio IX, che con bolla del 1391, credo che andiamo d'accordo, concesse il privilegio allo studium generale con le tradizionali facoltà. Alla costituzione dello studio seguì immediatamente la condotta di insigni lettori di diritto. E poi un fortissimo impulso alla facoltà di arti nel periodo umanistico. Basti i nomi di Guarino, da Verona e dell'Aurista per intravedere il prestigio cui era giunto questo studio, che non ebbe, che ebbe come principali promotori i marchesi Leonello e Borso. Non sembra che la facoltà teologica seguisse il passo delle due facoltà consorelle, perché la sua affermazione si avverte soltanto a metà del secolo XV. La storiografia dello studio va dalla notissima opera del Borselli, Storia Almi per Armi e Gennasi, del 1735, fino alla recente monografia di Alessandro Visconti, 1950. Alla fine del nostro interesse, l'opera più importante è quella dei Pardi, titoli dottorali conferiti dallo studio letterario nei secoli XV e XVI, Lucca 1900. In queste pagine, queste pure estratte dall'archivio notarile, si conoscono le lauree conferite nella facoltà teologica, nome dei laureati, loro provenienza, indicazione degli studi ove essi candidati alla laurea percorsero il loro iter accademico, specificazione dei promotori della stessa laurea e, assai anche interessante, la presenza dei testi alla stessa, come riproduce ogni rogito notarile. L'opera dei Pardi ha ricevuto recentemente utili complimenti da Adriano Franceschini, un formidabile ricercatore che con tenacia e uguale alla modestia ha perlustrato tutti gli archivi terrariti e ha letto, povero lui, tutti i rogiti dell'archivio notarile. Un maestro di scuola. Annuncio una novità, che per la sede meno pertinente nella quale è stata introdotta potrebbe sfuggire all'attenzione degli studiosi. Gli statuti della facoltà teologica terrarese nei secoli XV e XVIII, a cura di Vincenzo Caputo, nel primo volume dal titolo Gerolamo Baruffaldi, convegno di studi per il terzo centenario della nascita, Cento, piccola città del Ferrarese, e 1977. Nessuno andrebbe a guardare a questa pubblicazione per trovare gli statuti della facoltà teologica. Il primo statuto completo e assai diffuso risale all'anno 1470. Attraversando nuovamente il Po, ecco l'università più settentrionale della penisola. È doveroso riconoscere che l'università di Padova è la meglio illustrata fra tutte le università italiane. della teologia particolarmente. Dopo le ricerche di Andrea Gloria, alla fine del secolo scorso, quelle dello Zonta e del Brock, ai quali si è accennato ieri sera, Atta, Gradum, Academicorum, Gymnasium, Patalini, Padova, nel 1922, con la pubblicazione degli atti, lauree, eccetera, dall'anno 1406 fino al 1450, hanno documentato mezzo secolo di vita universitaria. Un nuovo impulso è stato dato dal Sambin, che con la sua equipe ha promosso la continuazione degli atti. I 13 volumi della Martellotto Forin, pubblicati dal 1969 al 71, comprendono gli anni 1501-1550. Sono in corso di preparazione. Ieri ho sentito piuttosto una preparazione più molto lenta, vero signora? Mai? Viaggia dal 1451 al 1500, un periodo che ci interessa molto direttamente questo. Non lo so poi perché, intanto per muori di studio, si nasce scoperta questa lacuna di un periodo assai importante. E accanto a queste edizioni maggiori, la serie dei contributi alla storia dell'Università di Padova, fra i quali, nella sede di questo convegno, mi sarebbe stato gradito, lo faccio lo stesso, ricordare lo studio del Fossili, che doveva essere qui presente, studenti tedeschi e umanesimo italiano nell'Università di Padova durante il 400 del 1971. Fino a pochi mesi fa, la Facoltà Teologica di Padova, istituita da Urbano V nel 1363, era l'unica che fosse stata illustrata a parte. Questo merito va ancora attribuito al Brotto e a Zonta, i due autori che abbiamo testé ricordato. Nella loro monografia essi illustrano i secoli XIV con l'edizione degli atti ufficiali, gli statuti del 1424 e con l'elenco dei laureati dal 1373 al 1509. Un secondo volume che avrebbe dovuto far conoscere i secoli posteriori è rimasto purtroppo nell'intenzione dei benemeriti studiosi. Alla Facoltà Teologica di Bologna ha dedicato le sue cure uno studioso degno del prestigio secolare dell'Alba Bolognese, Studiorum Mater, il cardinale Francesco Erle. L'interesse che per diversi decenni l'Erle aveva riservato alla storia della cultura medievale, teologica e filosofica, lo condussero al proposito di pubblicare i suoi antichi statuti di quella Università di Bologna, questa pure fondata, ecco, da Urbano nel 1364. C'è una discussione, edizione molto travagliata, perché Lerle, allora prefetto della Biblioteca Vaticana, nel maggio del 1915, per ragione dello scoppio della guerra, dovette lasciare Roma, la Biblioteca Vaticana, i suoi studi per trasferirsi a Vienna, in Austria e poi in Germania. Fortunatamente, nel 1932, ritornato subito dopo la guerra, Lerle riprese lo studio per l'edizione di questi statuti da un codice bolognese e da un codice viennese, giunti due codici esistenti. E nel 1932 questa edizione vide la luce dando inizio a una nuova lezione dello studio bolognese, studi bolognensis monumenta. Non poteva una collezione iniziarsi con il migliore auspicio del nome del cardinale Francesco Erler. Oltre gli statuti, Lerle pubblicò anche la matricola dei laureati e degli incorporati all'università, quale si trova nel codice bolognese degli stessi statuti. Matricola, dico subito, miserabile, perché costituita da una serie di nomi per quasi tutto un secolo, nomi poi che bisognerebbe guardarli bene per vedere se sono esatti, senza quasi nessuna specificazione, anche nella madre di provenienza. E quello che è peggio, senza alcuna specificazione cronologica. Per un secolo ci troviamo di fronte a un evento telefonico quasi, ecco, senza. Le mie ricerche si riallacciano a questa matricola. Il rinvenimento nell'archivio notarile di Bologna di un fascicolo che contiene i privilegi dottorati in sacra pagina dal 1444 al 1548 rogati dal notaio Rolando Castellani fu stimolante. La prima laurea, che nella matricola ora enunciata semplicemente Johannes de Arezio, Archipresbiter Ecclesiae Aretine, senza alcuna data, nel rodito notarile aveva queste precisazioni: Johannes Jacobo de Tortellis de Arezio, Artium Doctor, et tam in greco, quam latino, splendoris excellentissimi prefulgens eloquio. Non era una bugia, non era un'esaltazione impropria. Clericus secularis et ecclesiae aretine archipresbiter, con tutte le indicazioni prescritte, nome dei promotori, dei maestri del collegio teologico intervenuti alla laurea e dei testi presenti. Era così identificato il notissimo umanista Tortelli, il cooperatore di Papa Nicolo V nella formazione della Biblioteca Vaticana. Mi convinci che l'assoluta insufficienza della matricola ufficiale doveva essere sopprita, almeno in parte, dai roditi dell'archivio notarile. Ciò che intrapresi con un po' di pazienza e con buoni risultati. Nell'edizione della matricola, Lerle si era fermato l'anno 1501, in considerazione del particolare momento storico, riforma, controriforma, concilio di Trento, ritenne utile proseguire in uno studio a parte le ricerche archivistiche fino a metà del Cinquecento, con gli stessi risultati e con la conferma di quanto avevo già avvertito, cioè che nella matricola non erano stati segnati tutti i laureati per dimenticanza, negligenza, non diremmo cialtroneria dei decani. Un solo esempio. Quel Sebastiano Hofmeister, francescano, passato alla Riforma, corrispondente di Zwinglio, professore di ebraico a Berna, conseguì il magistero in teologia a Bologna il 31 maggio 1520. Il silenzio della matricola bolognese ha favorito fino adesso l'opinione che egli avesse conseguito il magistero in teologia nell'Università di Parigi. Niente Parigi, Bologna. Per la storia della facoltà di Pisa, ecco, passiamo alla Pedina, istituita da Clemente VI nel 1343, il contributo più consistente è stato dato dall'edizione degli statuti. Collegi Theologorum, Alme Universitatis Pisane del 1465, a cura del Fedeli nel 1910. Siamo in attesa che il gruppo diretto da Ennio Cortese dell'Università di Pisa pubblichi l'elenco completo delle lauree di quell'università. Lavoro già in avanzata elaborazione. Qualche cosa è stato fatto, ma si trova disperso nel bollettino storico pisano e in una serie di laureati toscani, laureati non toscani, eccetera, da complicare in modo la consultazione degli studiosi. E cosa strana, sia Lucca si trovi che le autorità civili diano un salario ad alcuni lettori e di teologia negli studi conventuali perché tenessero alcune lezioni proprio di teologia. Così ha documentato il Barsanti nell'opera nota, l'insegnamento forse poco divulgata, l'insegnamento impartito a Lucca negli anni, nei secoli XIV fino al secolo XIX. A Siena, elevato a studi generali dall'imperatore Carlo IV il 16 agosto 1357, la facoltà teologica fu concessa da Papa Gregorio XII nel 1408. È difficile stabilire però quando fu istituito questo nuovo insegnamento. Nel 1425 Bernardino da Siena tenne un corso di predicazione a Siena e riservò una predica agli studenti che studiano l'umorismo dell'Albizeschi, fa capire o francamente che anche allora vi fossero studenti che non studiavano. In quella predica disse a questo proposito: così avrei caro che ti si vedesse teologia qui a Siena e fosse buono maestro, però che tutte le virtù so virtù. Da questo accenno di San Bernardino una cosa mi sembra chiara, che per quell'anno certamente e molto probabilmente per gli anni precedenti e diversi anni non era stata istituita una pubblica cattedra di teologia. La recente edizione degli statuti dell'anno 1434 è stata curata da Luciano Bertoni nella rivista di storia della Chiesa in Italia nell'anno 1978. E ha fatto conoscere questa pubblicazione degli statuti, l'organizzazione della facoltà e la composizione del collegio teologico anche per alcuni anni precedenti alla compilazione degli stessi statuti. Sempre nell'Italia centrale, ma in diversa regione, la celebre Università di Perugia. In seguito all'ambasseria di notabili perugini, perché Carlo IV volesse ridare nuova luce allo studio, aliqualiter collapsum, per la terribile epidemia, peste nere del 1348-49, e l'imperatore accondisce favorevolmente il 19 maggio 1355 col diploma che accordava in perpetuo a Teresa lo studium generale. La facoltà teologica fu istituita nel 1371 per concessione di Gregorio XI. Si suppone che in qualche modo fosse funzionante alla fine del 300. È certo però che anche per il 400 si hanno soltanto sporadici, rari cioè ricordi. Solo nell'avanzato 500 la teologia appare prendere posto di vivo accanto alle altre facoltà. Riguardo all'Università di Roma, siamo un po' rimasti alla rimasti. Non ho compiuto una ricerca in proposito, mentre vi sarebbe tanto da precisare e tanto da chiarire. C'è lo studio del Valentini, gli istituti romani di alta cultura e la presunta crisi dello Studium Orbis 1370-1420, che mi assicura dell'insegnamento della teologia alla fine del 300. E c'è uno studio del padre domenicano Raimondo Kreitel sullo Studium Romane Curie. Un documento bolognese fa conoscere un po' il carattere di questo studio e fa supporre quale attività didattica avesse potuto svolgere. Il Collegio Teologico di Bologna e quello dello Studium Romane Curie si riunirono il 22 aprile 1437 per condannare uno spagnolo che a Bologna commentava l'Ars di Raimondo Lullo. Ma come? A Bologna lo Studium Romane Curie? Sì. Questa presenza si ricollega alle note altissime vicende di Papa Eugenio IV, che per i noti motivi rivoluzionari del 1434 fu costretto a rifugiarsi a Firenze prima e poi a Bologna in seguito, seguito dal suo collegio, dalla sua curia e anche dal collegio romano. Certo, si può pensare subito che fra esili e peregrinazioni uno studio regolare non uno studio, diciamo così, itinerante, fosse poco proficuo. Per l'Italia meridionale, un semplice cenno a due università. In quella di Napoli, il primo riferimento ad un lettore di teologia si ha nel 1451, con pochissime altre nomi, almeno nei documenti riferiti dal Canavale, dal Torrata e da altri studiosi di storia napoletana. Nei primordi dello studio di Catania, per l'insegnamento della teologia, si ebbe sempre un solo lettore, che poi insegnò anche filosofia, secondo le indicazioni dei due valorosi storici di quella università, Remigio Sabbadini e Michele Cattano. Riterrei di aver esposto grosso modo Currentisque Calamon, il primo punto, cioè lo stato delle ricerche e degli studi sulle università teologiche in Italia alla fine del millennio. Il secondo punto, se voi benevolmente me lo permettete, sarebbe quello di presentare un tipo, sottolineato tipo, di ricerca. Non ho detto, per amor di Dio, modello o esempio. Il più recente in questo settore di cultura medievale offre la facoltà di teologica di un luminoso centro culturale latino d'Italia, Firenze, alla cui storia studiosi tedeschi, dal Davidson al Christeller al Paz, hanno dedicato tutta la loro o gran parte della loro attività. Nella precedente rassegna delle facoltà teologiche, qualcuno dei miei pazienti uditori avrà certamente avvertito la mancanza di qualsiasi accenno a quella di Firenze, alla quale ho dedicato le mie ultime ricerche proprio nel periodo proposto come tema di questo seminario. La facoltà teologica dell'Università di Firenze nel 4 e 500, pubblicato qualche mese fa, nel Corriere di Corazzi, 1977, novembre. L'argomento del determinato è circoscritto, ma nello svolgimento, per ragioni di affinità o di differenze, ci si è dovuto riferire a quasi tutte le facoltà teologiche d'Italia, per una più precisa qualificazione dell'Istituto Fiorentino. Per oltre due secoli, la storia di questa facoltà si è identificata col Terracini, l'autore dei fatti teologali del Collegio dei Teologi dalla Sacra Università Fiorentina alla fondazione fino all'anno 1738. La presente consultazione di quest'opera mi ha convinto a poco a poco che si sarebbe reso un buon servizio alla storia della teologia e non soltanto della teologia, pubblicando i documenti originali che lo stesso Terracini, che fu bibliotecario archivista meglio della facoltà teologica, conobbe e utilizzò per i suoi fatti teologali. Questo volume comprende due parti. La prima, come introduzione. La seconda è dedicata all'edizione degli atti ufficiali, che sono l'originale Registrum Sei Memoriale Facultatis dal 1424 al 1567. Secondo, il Liber Baccalariorum. Terzo, l'Elencus Magistrorum Aulatorum et Incorporatorum, poterono essere incorporati. Erano teologi, magistri teologie laureati in altre città, Bologna, eccetera, che domandavano l'iscrizione, l'incorporazione al Collegio Teologico di Firenze, ed erano accettati, facevano parte del Collegio. E poi, quarto, gli statuti facoltati 1575, piuttosto tardivi, molto tardivi, ma che ripetono però decreti della facoltà anteriori del 400. Ecco l'introduzione, questa, come l'ho concepita, al fine di un'utile illustrazione di una facoltà teologica. Naturalmente, ogni facoltà, come ogni università, presenta una sua particolare fisionomia e propone, come oggi suol dirsi, una diversa problematica, connessa al tempo della fondazione, alle circostanze storiche e culturali in cui questo studio, questa università si sviluppa, tempo e circostanze che suggeriscono, caso per caso, uno stile diverso di illustrazione. A queste circostanze che ho detto, storiche e culturali, potremmo aggiungere anche le circostanze politiche, cioè l'atteggiamento che il governo della città, in cui risiede la facoltà teologica, come l'università, aveva nei confronti dell'università o della facoltà teologica. E io credo che in nessuna università italiana, come in nessuna facoltà teologica, vi sia stato l'interessamento della signoria fiorentina per i fatti della sua università. Io ho letto, e in parte ho anche raccolto, i documenti della prima signoria fiorentina per metà del secolo XIII, fino a quasi tutto il secolo XIV, fino a tutto il secolo, e ha creato una quantità di interessamenti, perché il maestro di teologia fosse promosso a onori, eccetera, fosse promosso a un episcopato, perché un baccalaureo potesse bruciare i suoi tempi senza quell'intervallo che era richiesto, perché le sue qualità sono eccezionali, perché si è riso per merito, e perché appartiene a una famiglia nobile fiorentina del merito della signoria, eccetera, eccetera. Fino al punto, questo non l'ho pubblicato, perché l'ho pubblicato in un altro studio, fino al punto di affidare agli oratori, ambasciatori che si ritavano a Roma, una bolla compilata dal cancelliere della signoria fiorentina, Bonifacio, eccetera, Papa Nono, eccetera, e tutta la stesura della bolla, perché Jacobus VI di Florenza, francescano, lettore a Santa Croce, fosse promosso al dottorato senza attendere i 2 anni circa dell'esercizio del baccalaureato, senza altri 2 anni, eccetera, eccetera, perché il suo padre, insomma. E poi questa bolla, come è scritto nello svolgimento della bolla, doveva passare, essere messa motu proprio ad nullius substantiam. Ecco come si possono presentare certi documenti. Però devo anche aggiungere che questa bolla non l'ho trovata nel bullarium francescano e non l'ho trovata in nessun'altra pubblicazione di bolle di documenti pontifici, per fortuna. Nel primo capitolo ho descritto l'archivio della facoltà teologica conservata nella biblioteca del seminario maggiore di Ungarno Soderini. Non mi sono riferito alla descrizione dei documenti che mi sono serviti, ma ho descritto tutto l'archivio. Per quale motivo? Per dare la possibilità a uno studioso che si interessa di queste cose, che intende illustrare un momento o qualche individuo appartenente alla facoltà teologica di Firenze, la possibilità di andare a colpo sicuro e trovare se c'è qualcosa di pertinente ai propri interessi. E qualche cosa dell'antico archivio della facoltà teologica è trasmigrato di qua dall'Arno. Ecco il registrum magistrorum che si conserva nella Biblioteca Nazionale, e poi un grosso pacco di queste dimensioni che si conserva nell'archivio arcivescovile. Chissà se ci fosse qui un fiorentino che si interessasse non solo della facoltà teologica, ma anche delle altre facoltà, di consultare questo pacco, perché in questo pacco si troverebbero tutte lauree, si troverebbero cose insospettate. Ieri, per esempio, si è parlato dei conti palatini che conferivano lauree, avevano questo privilegio di conferire lauree, di legittimare bastardi, era dato anche ad eminenti prelati ecclesiastici. Naturalmente queste lauree cosiddette sub cammino non erano comprese nei registri della facoltà teologica, anzi erano respinte, e coloro che della facoltà teologica si fossero prestati a conferimento di queste lauree erano espulsi automaticamente, secondo gli statuti, dal collegio teologico. Per cui anche qui c'è una determinazione della facoltà teologica che spende dal collegio un certo Nicolaus de Empoli in italiano, qua per iuris et infamis, in quanto era prestato al conferimento di una di queste lauree cosiddette sub cammino o per saltum, cioè passando, restando fedele all'inter prescritto. Naturalmente queste lauree non le ho trovate, queste lauree in appendice, sobrepizie, le ho trovate in questo pacco dei documenti. Nel secondo capitolo sono descritti i primordi della facoltà. Ho premesso che la mia documentazione ha inizio nel 1424, ma prima, sia pure con forte lacune, è possibile, con l'aiuto di altri documenti, descrivere le origini dello studio e per qualche tempo anche la successione dei lettori di teologia. Lo studio in generale fu istituito il 31 maggio 1349 con bolla di Clemente VI, che specificava le facoltà in sacra pagina, in lore canonico e civili, e tenne decina e qualibus aia dicita facoltà, le arti. Ad un maggiore prestigio dello studio e a più sicura garanzia del suo avvenire, il vescovo Pietro Corossini implorò l'approvazione imperiale che Carlo IV concesse nel 1364. La prima laurea in teologia fu data 10 anni dopo, o tardi, e questo per ragioni storiche, perché dopo la peste nera del 49 e le abbassate condizioni finanziarie differenti non permettevano che si facesse subito, si organizzasse subito lo studio. E fu conferita questa prima laurea a un nobile fiorentino, Francesco De Merli, da Firenze, che aveva compiuto i suoi studi nella Facoltà Teologica di Parigi. Fu un avvenimento straordinario. Tutte le campane di Firenze suonarono a testa e la descrizione di questo avvenimento è passata nelle cronache di Matteo Villani. Dal 1359 e in alcuni anni successivi si conoscono alcuni lettori deputati all'insegnamento della teologia da parte dei priori, del libero di giustizia e degli ufficiali dello studio. A Firenze la facoltà teologica si manifesta inserita nell'organico dell'università e i lettori sono scritti nei rodici dello studio assieme ai lettori delle altre facoltà, ai lettori di teologia come agli altri lettori viene corrisposto un pubblico salario. Questo bisogna tenere presente. Non si può dire che questo ordinamento fosse esclusivo della facoltà fiorentina, perché si riscontra anche a Pavia, nei Pirotoli, si distinsero i lettori in sacra pagina dai lettori delle altre facoltà e con la assegnazione di un salario. Non esclusivo adesso, ma certamente singolare, da quanto si può arguire dalla documentazione superstite, molto spesso frammentario, oppure si può arguire da qualche indizio. Si ha l'impressione che l'insegnamento della teologia non fosse considerato come propria attività della facoltà teologica, ma piuttosto come insegnamento complementare della facoltà di arti. Ho già accennato in proposito a qualche università. Sembra inoltre che a tale insegnamento mai fosse stata data molta importanza. Nei rotoli dell'Università di Pisa, per esempio, si legge nel 1492 nullus fu teologie doctor e dopo il 1494 per triennium vacavit teologie scola. A Bologna, sede della facoltà teologica, cronologicamente e geograficamente così vicina a Firenze, l'ordinamento fin dall'inizio fu del tutto diverso da Firenze. L'insegnamento era impartito esclusivamente nell'interno degli studi a generali, specialmente degli ordini mendicanti o dei collegi aggregati all'università. I nomi dei lettori mai furono inseriti nei rotoli dello studio e mai fu loro corrisposto un qualsiasi salario. Avranno detto che erano mendicanti, quindi ci dispensiamo da qualunque salario. L'ingresso ufficiale dell'insegnamento della teologia in questa Università di Bologna, e non come facoltà teologica, ma semplicemente come insegnamento, compreso nella facoltà di arti, avvenne nell'anno scolare 1566 al 1567, quando nei rotoli apparve la novità, addirittura in teologia, deputati feste, magister Cirillus Bolognisis, ordini servori. I particolari di questa innovazione sono resi noti da una decisione del Senato bolognese che con decreto del 1566 attuò le disposizioni del Consiglio di Trento, commenti et intenzioni senatusi delle disposizioni sacri concilii trentini dell'ettore teologo in hoc almo bolognese ginnasio provvedere. Identica innovazione e sempre sotto l'influsso del Consiglio di Trento si ebbe tre anni dopo, nel 1569, nell'Università di Ferrara. Ma anche per esempio, la presenza dei teologi nei rotoli dello studio venne meno. Non è possibile fissare la data di questa trasformazione nelle strutture dello studio per la discontinuità dei rotoli superstiti. Posso dire che la teologia scomparve nei rotoli del 1402, 413, 422, 23, 432, eccetera. Se qualche volta comparirà, tale insegnamento sarà abbinato alla lettura d'Anti oppure alla facoltà di Arti. Filosofia morale. In conclusione, alla fine del Medioevo e già prima, l'insegnamento della teologia era impartito negli studi generali, specialmente degli ordini mendicanti, che assieme costituivano il collegio teologico, con la rappresentanza dei più qualificati maestri, cui presidiva come cancellario il vescovo diocesano. In considerazione appunto dell'importanza di questi studi generali, sia per la storia della teologia e della cultura fiorentina, ho riservato loro il terzo capitolo. A Firenze gli studi generali dei mendicanti furono tutti fiorenti e le loro sedi sono notissime anche ai cultori di arte, della storia dell'arte. Santa Maria Novella, dei frati domenicani, Santa Croce, dei francescani, il Carmine dei carmelitani, Santo Spirito degli agostiniani, l'Annunziata dei servi di Maria. Naturalmente, non era mio compito tessere la storia di ogni singolo studio. L'ho fatto però per Santa Croce. Mi si conveniva. E credo di aver fatto un favore, cioè un piacere anche al professor Manfredi. Perché l'erezione a studio generale nell'ordine francescano di Firenze è legato a un grandissimo nome, o meglio a due grandissimi nomi: Matteo da Quattarto di Natale del Borgo, che invia a Firenze lo studio generale, ecco la testimonianza, Pier Giovanni, e dietro di lui Ubertino da Catania di Dantesca memoria. Mi interessava fornire i dati essenziali, dopo aver ricercato il tempo della loro promozione a studio generale, da studio conventuale, studio provinciale a studio generale. Lì c'è tanto discusso intorno al significato di studio generale. Nell'area teologica abbiamo un altro concetto. Cos'è lo studio generale? era lo studium ad quod omnes provinces omnis mittunt suos studentes. E dico, mittunt suos studentes. Questa ricerca mi ha assicurato che tale promozione avvenne già nel secolo XIII per i primi tre ordini orora ricordati. Altra mia cura è stata quella di segnalare le fonti edite e inedite per orientare un eventuale studioso alla storia dell'uno o dell'altro studio. Non ho trascurato un cenno alle antiche biblioteche di questi studi, perché là si formarono alle scienze teologiche gli studenti religiosi, là lavorarono i maestri che legarono il loro nome ad opere giunte fino a noi. Non è forse esagerato affermare che quelle biblioteche degli ordini mendicanti qualitativamente furono i centri maggiori e cronologicamente i primi della cultura fiorentina. Se mi è permesso, vorrei consigliare i colleghi che svolgono la loro attività in città che furono sede di facoltà teologiche di suggerire a qualche loro allievo di solida preparazione e di buona volontà a interessarsi di questi studi generali, la cui illustrazione sarà un valido contributo alla storia non solo di quella facoltà, ma anche della stessa università e della cultura medioevale. Convinto di questa utilità, ho compiuto questa ricerca per lo studio di San Francesco di Ferrara nel 400 e per lo studio di San Francesco, il più antico studio generale dell'ordine che comincia con Sant'Antonio da Padova, non una leggenda, una documentazione, una data, un fatto documentato nello Speculum Perfectionis, e 1224-23-24 secondo insomma, le differenze cronologiche prospettate in un volume a parte corpulario di studi dominanti santi francesi. Un ottimo esempio di elaborazione e una dimostrazione dei buoni risultati conseguiti lo può dare il volume di Luciano Gargan, lo studio teologico e la biblioteca dei Domenicani a Padova nel 3 e 400, Padova 1971. Nel quarto capitolo ho steso la serie dei decani della facoltà nel secolo XV, soltanto nel secolo XV, i quali si alternavano nell'ufficio anno per anno, seguendo una rotazione fra i maestri degli ordini mendicanti. Evidente che i candidati proposti si scegliessero fra i maestri più qualificati degli stessi studi generali. Difatti si conoscono decani che svolsero un ruolo notevole nella vita ecclesiastica e nella vita letteraria di quel secolo. A questa vita ecclesiastica e a questa attività letteraria ho riservato il capitolo quinto, il più diffuso. I maestri del corito teologico, come i lettori delle altre facoltà, rappresentavano, come rappresentano tuttora, l'aristocrazia intellettuale di Firenze e non potevano rimanere estranei agli avvenimenti della Chiesa, sia della Chiesa universale come della Chiesa locale e alla vita culturale della città. Innanzitutto la presenza degli studi generali ai grandi avvenimenti della Chiesa. Il primo e il più grave fu lo sisma di Occidente, scoppiato nel 1378, neppure un trentennio dopo la fondazione dell'Università di Firenze. Firenze rimase fedele a Urbano VI, nonostante che un alto prelato, Pietro Corsini, già vescovo di Firenze, il cardinale Florentino, avesse aderito all'opera. Ma quale l'atteggiamento degli studi generali? A Santa Maria Novella dei Domenicani influiva lo spirito di Caterina d'Assina e del suo direttore spirituale Raimondo da Capua, e non vi fu nessun prospetto di adesione allo spirito. Una testimonianza di fedeltà lo dettero anche i carmelitani. Nella loro chiesa ogni mattina, nella messa, si imposero il ricordo di nostro Papa Urbano. Così anche ai servi, che allora erano studio abbastanza limitato, studio che soltanto nella seconda metà del secolo XV ebbe un'affermazione piuttosto vigorosa. Ma una pertinace reticenza si ebbe nello studio di Santo Spirito da parte di un suo insigne maestro, Luigi Marsini, che si era trovato appunto a Parigi, studente di teologia, allo scoppio dello sisma. E questa reticenza, il generale dell'ordine aveva prescritto il giuramento di fedeltà a Urbano, ed egli, non già forse se fosse contrario a Urbano oppure aderisse in qualche modo all'antipapa Clemente, ma per un suo principio negò al suo generale il diritto di imporre un giuramento per l'uno per Urbano. E allora, un sacco è un personaggio eminentissimo nella storia del preumanismo fiorentino, il Marsini, e si negò ed ebbe un sacco di guai, e pagò però di sua tasca, perché nonostante che la signoria ripetutamente avesse domandato una promozione, un scovado a questo Marsini, mai gli fu concesso. Un sospetto di adesione all'antipapa si ebbe nel convento di Santa Croce dei Francescani. Dico sospetto. In un momento un po' travagliato, era stato deposto il provinciale di Toscana, Tommaso da Poppi, non si sa per quale ragione, proprio in quell'anno, e poi deposto l'inquisitor eretice Pravitatis, cioè Denerli, il quale ebbe un sacco proferito di pasticci, eccetera, e fu accusato di adesione, ma fu soltanto un sospetto. Fatto sta che in seguito fu riabilitato con la partecipazione di un dottorato in teologia richiesto al padre, mi sembra Moneta Canova, passato insomma quel tempo cruciale. Partecipazione, altro fatto della Chiesa Universale, la partecipazione ai concili. Guardate, in Toscana, in quel tempo, nel secolo XV, vi sono proprio tre concili. E il concilio di Pisa del 1409, il concilio di Siena del 23, il concilio di Firenze del 1438. Ciò che favoriva un intervento, una partecipazione dei teologi fiorentini agli studi conciliari. E maestri dello studio, in una forma abbastanza vistosa, parteciparono a questi. Quindi, c'è, adesso vi sto il nome dello studioso tedesco che ha pubblicato gli atti del Consiglio di Siena, precisamente, racconta ciò che avvenne a un domenicano, il quale rispondendo, replicando a un discorso che un concilio aveva tenuto Giovanni di Ragusa, domenicano, deplorando gli scambi della Chiesa, la corruzione della Chiesa in Chiesa, e salto su, doveva rispondere, insomma, replicare, e tenne una diatriba tremenda contro il suo fratello, dicendo cosa ti viene a raccontare tu, qui in questa assemblea generale davanti al popolo. Allora, fatto sta che fu rinchiuso in prigione, nelle prigioni fu rinchiuso per questa sua posizione, e poi se la cavò. E piuttosto si deve notare che nel Concilio di Venetino la presenza dei teologi fenicini fu minima, di fronte alla riforma. Due servi, teologi dei servi di Maria, svolsero un'attività controversistica, Cosimo de Pavillis e Romolo de Laurentiis, ma un teologo fu segnato a dito come simpatizzante o come aderente alle correnti opinioni del protestantesimo, l'agostiniano Andrea Ghetti da Volterra, ricercato predicatore e figura sufficientemente nota agli storici della riforma e della controriforma. Anche lui pagò di sua tasca perché fu rinchiuso nelle prigioni dell'Inquisizione romana, dove rimase niente meno che per 6 anni. Ma è strano che egli, già sospettato di opinioni eterodosse, nel 1458 fosse stato accolto nel collegio teologico e l'anno successivo ne fosse stato eletto decano. Sorvolo su alcuni interventi dei teologi nell'ambiente cittadino, come nella questione del monte comune, che ha interessato studiosi americani recenti, e nel 1353, solo cui di Ceitan vi erano le opinioni contrastanti dei domenicani, dei francescani e degli agostiniani, come ricorda Matteo Vidani, e opinioni espresse in opuscoli che sono giunti fino a noi e sono stati oggetto anche di edizioni recentissime, come pure Sorvolo sull'analoga questione del monte di pietà che raccolse intorno a quel fortunato Coppoli, francescano promotore del monte di pietà, nel 1472, il fior fiore della cultura fiorentina, non soltanto teologica ma anche giuridica, aderirono cioè contro i domenicani alla tesi francescana. E poi ci sarebbe ancora da trattare questo l'atteggiamento della facoltà teologica nei confronti del caso Savonarola. E cominciando da Santa Maria Novella, chi lo crederebbe? La facoltà come tale mai appare in questa vicenda, mai appare, però appaiono i teologi, i maestri della facoltà teologica, ma nessuno lo crederebbe che i principali accusatori del Savonarola fossero stati domenicani di Santa Maria Novella. Qualcuno mi potrebbe domandare questa spiegazione, come i domenicani combattono il loro confratello. Questo fatto si inserisce nei movimenti riformistici del secolo XV. Santa Maria Novella, sede dello studio Romolo, apparteneva all'antico Servante, mentre San Marco, attese, convinte del Savonarola, apparteneva a quella riforma promossa dal Dominicano, incrementata da Sant'Antonino di Firenze superiore a San Marco, e allora via come negli altri ordini religiosi un certo contrasto tra i domenicani di antica servanza e gli osservanti, al punto che in una pubblica controversia il Savonarola ebbe a dire figli madri nero con il turbaverno nero turbaverno, cioè il testo di Gentile, i figli di mia madre. Un ultimo rilievo e poi ho finito, devo dire però che due teologi francescani del convento lettori in Santa Croce, e Paolo da Puccecchio e il più noto Giorgio Benigno Salviati, e aderirono e furono difensori del Savonarola. Un ultimo rilievo ho già avvisato, e sull'insegnamento inserimento degli studi generali nella cultura fiorentina, un atteggiamento assai diverso di fronte al preumanismo e all'umanismo. A Santa Maria Novella, che si è andato, fu proibita la lettura della commedia di Dante, di quel Dante che a Santa Croce e a Santa Maria Novella aveva compiuto i suoi studi preliminari, che dice lui nella vita nuova. E Giovanni Dominici, nella Lucula Noctis, in polinta con colisse salutati, giunse alla paradossale affermazione utile est cristiani terram arare quam gentilium intendere. Ma poi, superati questi pregiudizi, i domenicani di Santa Maria Novella commentarono Dante in cattedrale e per incarico dei signori. Dante era stato scacciato da Santa Maria Novella, ma entrò in chiesa, entrò in convento attraverso la porta della chiesa. Difatti, gli affreschi di Orsania rappresenta in Santa Maria Novella una delle figure della Trasfigurazione di Dante, una delle più originali, più aderenti alla tradizione. E dal convento passò dalla chiesa, passò in convento. Il primo e pubblico commentatore della commedia, per incarico della signoria, pochi anni dopo la morte del poeta, sarebbe stato Accorse Bonfantini, lettore in Santa Croce, e poi dal 1357 vi fu un altro francescano, pedante della casa, il quale si rese benemerito non soltanto per gli studi danteschi, ma particolarmente per il Petrarca e per il Boccaccio, prescrivendo una quantità di codici di petrarcheschi e boccacceschi, e superfluo rievocare l'atteggiamento dello studio di Santo Spirito, le relazioni cordialissime del Petrarca con Luigi Marsini, quello che aveva tenuto a confronto dello schisma, l'atteggiamento un po' sospetto, apostolo questo Marsini della nuova cultura umanistica, e poi superfluo per ricordare i rapporti del Boccaccio con frate Martino d'Assisi, cui il novelliere Boccaccio, il novelliere di Certaldo, lasciò i suoi per testamento, i suoi libri, onde passato alla morte di frate Martino alla biblioteca conventuale. Se non avessi già abusato troppo della pazienza vostra, vorrei aggiungere qualche cosa sopra Pietro da Figline, lettore in Santa Croce e decano della facoltà nel 1489, a proposito di una sua trascrizione dantesca e, accennavo, a correzione della recente enciclopedia dantesca, la cui ufficialità consecrerà e divulgherà un errore che sta per quanti decenni. E vorrei prevenire la domanda che qualcuno legittimamente mi potrebbe rivolgere, cioè in quale misura questa facoltà teologica contribuì allo sviluppo della teologia. È un contrasenso, non ne abbiamo ancora parlato. Grazie. La vastità e la ricchezza della relazione. Ma sono presente una serie di punti essenziali, perché nella relazione salesiana noi abbiamo una presentazione delle facoltà teologiche e la ricerca e i risultati della ricerca su una facoltà teologica. Io, se mi permettete, direi prima chi ha da rivolgere qualche richiesta sulla facoltà di Firenze, come prima parte della discussione, chiarimenti su Firenze. Poi se mai passiamo ai problemi delle facoltà teologiche in Italia. Qualcosa su Firenze, non so, non preferisco fare l'inverno, perché il problema è dove abbiamo avuto più dati. Dunque, io avrei naturalmente molte curiosità, eccetera, e molte cose che non sono soltanto la verità, ma non vorrei fiorentinizzare un po' troppo il lavoro. E poi, tra l'altro, purtroppo manchiamo dell'amico Merosi, occupandosi specificamamente, studiando questi problemi, avrebbe potuto molto meglio di me proporre certi temi all'attenzione vostra. No, io mi limiterò, premesso che naturalmente moltissime cose sarebbero degne di un dibattito approfondito, per esempio quanto lei ha detto sul Monte dei Pietati, che adesso corrisponde, quando lei ha detto sul Monte dei Pietati, corrisponde proprio a un tema molto studiato, anche se posso così anticipare certi risultati che ancora non ci sono, anche in sede di molte tesi di laurea in questo momento vengono portati avanti sia alla facoltà di lettere sia alla facoltà di magistero. Il problema, per esempio, di Savonarola, il problema che mi sembra molto importante e molto interessante, certamente lo è per la vita politica e religiosa fiorentina, della opposizione, comunque della profonda differenza tra i due centri domenicani di Santa Maria Novella e di San Marco, che tra l'altro mi pare rispondano anche a due province domenicane diverse. E qui potrebbe essere un ulteriore elemento anche. Più che province, una vera congregazione distinta dal corpo dell'ordine, la congregazione Santi Marti. Quindi c'è una divisione abbastanza forte. Con i vicari generali, o Trieste, Lombardie, i quali avevano una giurisdizione completa sopra i loro sudditi, così un caso analogo come fu nell'ordine franciscano. Però io mi vorrei limitare semplicemente a due problemi, o meglio a due ordini di problemi, più che riguardanti la facoltà teologica dal suo interno, riguardanti, diciamo così, lo studio teologico, o meglio, lo studiare teologia, per essere più precisi, a Firenze, relativamente da un lato ai rapporti con la città e dall'altro ai rapporti con la cultura e direi quasi con la spiritualità. E quel primo problema è questo. Lei ha toccato, seppure basso en passant, il tema dell'interessamento della Signoria per lo studio teologico, rilevando come costantemente il governo trentino si occupi e si preoccupi dello studio. Ecco, a suo avviso si tratta sempre o almeno prevalentemente di un fatto che potremmo definire così, molto lato senso, non vorrei essere ben detto, un fatto diciamo di potere o di equilibrio politico, eccetera, quanto lei ha accennato sui rapporti, sulle richieste della Signoria fiorentina riguardanti personaggi così eminenti dell'aristocrazia, in questo senso potrebbe essere abbastanza evidente, certo, soprattutto dopo la chiusura del governo oligarchico, dopo il 1782, mi sembra che questo sarebbe molto importante chiarirlo e approfondirlo. Ma volevo chiederle se lei non pensa che accanto a questo problema di potere, di equilibrio politico, dello studio teologico, come anche un grande fatto nella città di Firenze, non ci potessero essere da parte del governo fiorentino, dietro a questo seguire lo studio teologico, anche delle preoccupazioni più squisitamente di tipo religioso, delle inquietudini anche se si vuole di tipo religioso. Io allungo in questo senso a quanto sta fino, forse faticosamente emergendo negli ultimi studi relativi alla grazie anche a studiosi statunitensi, inglesi statunitensi, sulla vita religiosa fiorentina, che non è quella vita così poco interessante rispetto alla vita economica o politica, eccetera, ma che è una vita, naturalmente la Firenze del 300 più che quella del 400, che è una vita estremamente travagliata. Professor Martelli, presentando il libro di Rutherford, ricordava che il problema, per esempio, dei fraticelli, eccetera, anche se le fonti sono piuttosto poche in materia, è un problema che sembra avere preoccupato molto la Signoria. La Signoria ne parla a un certo punto, se ne parla in sede di conferenza pratica, se ne parla molto spesso, anche a proposito di rapporti tra personalità abbastanza interessanti della vita fiorentina del tempo, cito il caso, non so, di Tommaso del Palazzo, di rapporti di Giovanni delle Celle, eccetera. Ecco, un altro problema che mi interesserebbe, almeno a me personalmente, focalizzare meglio, è quello a cui avevamo già accennato anche qualche giorno fa, riguardo il rapporto, o se si vuole la dicotomia, tra l'università da un lato e le, diciamo così, accademie da un lato, di accademie teologiche evidentemente molto di proprio parlare, però certi gruppi che ci sono a Firenze, che lavorano in quello stesso periodo, diciamo a livello spirituale o mistico, ma anche credo teologico, potrebbero essere interessanti se messi in rapporto con, si può farlo, anche con certi maestri teologici, ammesso che questo rapporto possa essere possibile, non so, la fondazione del Paradiso, verso al quale c'è tutto un tentativo di importare a Firenze la spiritualità cristiana, eccetera. Posso rispondere subito? Così per non accumulare, sì, poi no, direi anche perché poi dobbiamo far parlare altri. Senta, lei lui può essere il più, nulla, questo è un po' sintetico. Sintetico, altrimenti la. Senta, lei la prima domanda, l'ultima domanda per quello del momento brigidino, non vi è nessun rapporto con la facoltà teologica. E io ho citato l'articolo dei Piattoli, sì, e certamente un centro di cultura, specialmente per la diffusione del libro, del libro. Io era quasi uno scriptorium, il paradiso, eccetera. E l'ho trovato benissimo dal Piazzoli una quarantina d'anni fa, verso il 28, 29, eccetera. Però non vi è nessun rapporto con la facoltà teologica. Non emerge né fra i laureati, né fra i maestri dello studio, nessuno appartenente a questo movimento brigidino. Quindi, escluso. Intorno alle accademie non vi è un rapporto diretto. Certamente a Firenze è riconosciuto l'Accademia di Marsiglio Ficino, l'Accademia Platonica, eccetera. Ora non risulta. Guardi, una personalità come Marsiglio Ficino, che ha riempito Firenze della sua cultura, eccetera, dei suoi interessi, mai compare non solo negli atti della facoltà, ma neppure nei rapporti. C'è uno degli ultimi lavori tutti rivelatori del Kristeller, Sebastiano Salvini, che è stato poi uno di quei laureati subaccanino in contrasto con la facoltà teologica. Beh, neppure con quello umanista di un rapporto con la facoltà. E ci può essere un rapporto fra un singolo maestro, per esempio il Salviani, che ha avuto rapporti con anche altri maestri, ma singolarmente vuol dire rapporti personali con l'Accademia, o meglio col Marsiglio Ficino, ma rapporti con nessuno. La prima domanda, queste promozioni o questo interessamento delle autorità fiorentine, dei meriti poi, che carattere avessero, io non lo potrei dire, io credo che fossero, scusatemi la parola, intralazzi, un senso ulteriore di rapporti, vuol dire, per coloro che non conoscono il basso parlare italiano, intralazzi personali, razione persone e razione famiglie. Che ci fosse, non credo, che poi dietro si nascondessero degli interessi più o meno politici, questo non compare. E forse ha tardato presentare un'ipotesi di questo. Ma erano già sufficienti i rapporti con una famiglia nobile fiorentina, che aveva un frate domenicano, franciscano, guasteliano, eccetera, per promuovere questo, per dietro raccomandazione o senza raccomandazione, per presentare alla curia romana qualche domanda di promozione alla gerarchia ecclesiastica. Io farei presentare qualche altra congettura sarebbe azzardato, e poi senza, sarebbe una congettura priva di un fondamento, insomma, senza supposizioni. Qualche cosa? No, c'era una cosa su un personaggio particolare, mi viene anche dica pure, leggeli pure. No, ecco, a proposito di questo problema del paradiso, sì. Uno dei principali oppositori del paradiso era l'allora vescovo Nobile dello Stecchi, Agostiniano. Sì, sì. Ecco, avrei voluto sapere se nello studio agostiniano di Santo Spirito a Nobile dello Stecchi, che qua è una importante anche diplomaticamente per rapporti con il Regno di Napoli, la sua eccetera, se ha un ruolo. Sì. Nessuno. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Ergänzend zum Vortrag von Pater Piana kam in dem kurzen Wortwechsel heraus, dass der Gegensatz zwischen Santa Maria Novella und San Marco nicht nur der Gegensatz zwischen zwei Richtungen im Dominikanerorden, sondern sogar zwischen zwei Organisationen ist. Es sind zwei verschiedene Provinzen, eigentlich sogar zwei verschiedene Kongregationen im Dominikanerorden, der damals ähnlich gespalten war wie der Franziskanerorden. Zwei Fragen von Dr. Cardini, die dann eine kurze Brücke gefolgt ist, waren, ob das Interesse der Signoria am Studium der Theologie nicht vielleicht mehr gewesen sei, als nur ein Interesse am politischen Gleichgewicht, sondern vielleicht auch ein Interesse an einem möglichst einheitlichen, sozusagen ordentlichen und geregelten kirchlichen Leben in einer Zeit, in der Fraticelli und andere die kirchliche Einheit bedrohten, auch in Florenz. Hat Piana antwortet, er könne nicht mehr sagen, als dass mit Sicherheit von Seiten der Signoria persönliche oder familiäre Interessen deutlich werden, die eben in der Empfehlung von Verwandten oder Angehörigen zum Beispiel für Beförderung an der christlichen Kurie ihren Ausdruck finden. Mehr könne er aufgrund seiner Erkenntnis dazu nicht sagen. Die zweite Frage war nach dem Verhältnis der Universität und der Theologischen Fakultät im Besonderen zu den Akademien und zu geistigen bzw. geistlichen Strömungen, wie etwa der, Richtung der heiligen Brigida. Und Pater Ferner antwortet, von der Spiritualität Brigidina gibt es keine Brücke zur Theologischen Fakultät, jedenfalls nicht in den Quellen. Auch zwischen der Theologischen Fakultät und der Akademie, etwa der Platonischen Akademie des Marsilio Ficino, keine direkten Beziehungen, höchstens etwa so, dass Salviati, Mitglied der Theologischen Fakultät, persönlich mit Marsilio Ficino bekannt und befreundet war, aber keinerlei sozusagen gegenseitige Wechselwirkung oder dergleichen. Schließlich fragte Dr. Cardini noch nach der, ob im Zusammenhang mit dem Paradiso degli Alberti, gegen das vor allen Dingen der damalige Bischof, ein Augustiner, aufgetreten ist, irgendetwas von dem, von der Theologischen Fakultät zu berichten sei. Antwort einfach nein. Prego. Lei ha parlato di testi incorporati nella facoltà. Vorrei sapere se questi documenti lo permettono, quali erano i criteri di incorporazione. I sistemi? Sì, se vi erano tutte le condizioni particolari. Non credo. Credo che fosse il voto dei già aggregati o di coloro che costituiscono il collegio teologico. Nessuno, dal momento che era già laureato, aveva già i requisiti per far parte del collegio teologico. Naturalmente vi dovevano essere probabilmente elementi anche di contatto, rapporti umani. Ah, certo, questo è il punto. E questo è il di carattere, diciamo, di pagare lo stesso. La domanda nasce dal fatto che si è accennato già al problema degli incorporati. E proprio, mi scusi se parlo a nome, ma proprio il dottor Dicke notò e sottolineò che nei casi di università tedesche ci sono casi del genere, però chi passa da un'università all'altra deve pagare almeno le spese per ottenere, che si sarebbero pagate comunque per ottenere il dottorato. E quindi adesso cosa succede a Firenze? Sì, non è stato fatto. Che non la presente che vi sia nessun caso in cui per l'aggregazione di un maestro, che poi l'aggregazione anche dei bacalari, per esempio uno che aveva fatto gli studi in un'altra parte, in altri paesi, mi sembra che nella documentazione, la mia certezza è questa, sera per gli esami, eccetera, soldi, debiti, che ricorre molte volte nella documentazione, Non credo che vi sia mai assolutamente per i maestri. Era un onore che veniva con questo. Non si può venire ad ogni, insomma, nel memoriale della facoltà, dove vengono riempiti ogni tanto le aggregazioni dei maestri, si vi fosse da pagare qualche cosa. Era un onore che si conferiva, un onore di più. Poi, oltre un titolo onorifico, era anche, non so la quantità, perché per ragioni degli esami, delle lauree, vi era l'imposizione di un tot di denaro, il quale veniva poi diviso fra i maestri del collegio teologico. Quindi, onore sì, ma anche della tasca. Era un vantaggio. Un vantaggio, non so. Vantaggio. Questo vantaggio. Se c'è di valore, si dice anche adesso, questo è come oggi essere chiamati a un consiglio di amministrazione. ma lei non parla per essere chiamato. Ad ogni modo, guardi, adesso un po' ho perduto il contatto, un anno che ho finito, anche se è stampato da pochi mesi, ma nella prima parte dei documenti, dove si parla delle aggregazioni, quando capita l'aggregazione, si vede subito se c'era qualche cosa da pagare, perché il memorialista, il decano della facoltà, l'avrebbe scritto, come è scritto per l'aggregazione dei foglietani. Holdi debiti? Geht die Frage, ob es für die Inkorporation von Magistern, die außer Referenz promoviert worden sind, irgendwelche Formalitäten gibt. Aber Jana sagt, es genügt die Zustimmung der am Ort sitzenden Magister für eine Prozedur oder einen Vorgang, die keine Anhaltspunkte. Es ist dann die Frage gestellt worden, ob denn ein solcher inkorporierter Magister für seine Inkorporation etwas zu zahlen hat, in Anschluss an das, was wir gestern schon über die nicht so freie Lizenz Publikum Docendi besprochen haben. Vater Pianer sagt, es gibt in den Quellen keinen Anhaltspunkt dafür, dass diese neuen Florentiner Magister etwas hätten zahlen müssen. Im Gegenteil, wenn Baccalaurei aufgenommen werden, steht jedes Mal, Baccalaurei anderer Universitäten, steht jedes Mal in den Matrikel drin, solide Debitum, der betreffende Baccalaurei also hatte zu zahlen. Bei den Magistern steht es nicht, ergo hatte er wahrscheinlich nichts zu zahlen. Trotzdem erweckt dem neuen Magister der Theologischen Fakultät ein Vorteil, denn an der Verteilung der Promotionsgebühren nehmen die neuen Magister ebenso teil wie die Residierenden. Das ist also etwas Neues gegenüber dem gestern besprochen. Ich habe nur eine Frage, da wir gerade von riguardo al problema di ancora di natura finanziaria, se cioè gli studenti che assistevano, che erano studenti della facoltà di teologia, per quello che concerne Firenze, pagavano o non dei contributi per questo insegnamento, e nel caso che pagassero, se andavano ai maestri o andavano viceversa all'ordine. All'ordine? No, ecco, per poi gli studenti pagavano e a chi pagavano in parole, in altre parole. Non c'è nessuna documentazione, per il tempo, in cui gli studenti frequentavano questo insegnamento impartito nell'ambito dell'università, non vi sono assolutamente documenti. I documenti sono stati lodevolmente pubblicati dallo storico che ha pubblicato ha pubblicato alla fine dell'altro secolo gli statuti dello studio fiorentino, non c'è nessuna indicazione di questo genere. Ma quel solve debitum di cui abbiamo sentito prima dei baccellieri, quello è quando la facoltà teologica è a sé come corpo teologico, cioè dal 1424 in avanti. Allora andava al collegio teologico. Ma poi viene ripartito ai magistri. E cosa succedeva con la parte che spettava ai magistri degli ordini medicali? Ma erano loro. O dell'ordine? No, erano. Quelli rimanevano senza nulla. Probabilmente, io penso che, come nello studio di Santa Maria Novella o di Santa Croce, le province ordini, e io dico quali sono le province ordini secondo i diversi statuti di due secoli, anche tre secoli dell'ordine, le province che potevano mandare o dovevano mandare un del duo studentis a studium florentinum, io penso, come si fa adesso, che le province cui appartenevano questi studenti dovessero pagare a Santa Croce o a Santa Maria Novella un tot per il loro mantenimento. Questo al convento, allo studio, convento, studi, Santa Croce, Santa Maria Novella, Santo Spirito, eccetera. Quello che poi veniva in tasca, ahimè, perché non lo so, e lo dovrei sapere, perché secondo la regola di tutti gli ordini mendicanti, nessuno doveva avere, e al deiure di falso nessio. Perché non c'è bisogno, perché parla così di tutti i governi. No. No. Concorsi, il collegio teologico come funziona? Sì, ho capito. Devo rispondere subito. Faccio una volta cosa alla volta, così siamo più chiari. Sì. Non c'era bisogno di nessuna cosa. E vi sono esami, eccetera, come abbiamo già detto. E la laurea non era un titolo sufficiente per essere aggregato. Difatti, i documenti dicono non fui laureato con il secondo per laurea, non fui aggregato. Forse perché non aveva nessun interessamento il tizio la sua, di essere aggregato. Per esempio, faccio un nome, Nicolaus Cugliotelli, che è diventato provinciale di Parigi, ha avuto dello studio dei Cordeliers di Parigi una grande importanza in quello studio, e finito lo studio a Santa Croce riparto per Parigi e quindi non ho nessun interesse. Altri forse avrebbero forse desiderato di essere, ma forse la competenza, il prestigio del nuovo laureato non meritava questo onore, e forse non è detto naturalmente, si fa, faccia conto, in una nostra università uno viene chiamato assistente, cioè assume perché è favorito e goda la stima, il prestigio del suo professore, se lo chiama. Così anche il Correggio poteva accettare l'aspirazione di un neo laureato per essere aggregato al collegio teologico. Sì. No. Premetto che io non mi interesso fuori del Medioevo, ecco, quindi ho toccato per lo studio di San Francesco di Bologna e per in questo volume il 500 per motivi specifici, cioè gli grandi avvenimenti, la riforma, il Concilio di Trento, i grandi fatti del secolo, che hanno certamente un interesse nella facoltà teologica, ma fuori di questo periodo e per il 500 soltanto per via di eccezione, del resto non mi sono occupato. Però il fatto che lei ha registrato nell'Università di Roma in un periodo posteriore vale per il Medioevo, in quanto potevano essere affollate le facoltà di diritto, anche da parte di ecclesiastici, meno le facoltà di arti e medicina, e in una misura ristrettissima lo studio della teologia. Sa il motivo perché? Lo sa, glielo dico io, ritorniamo sempre in un motivo molto banale, in quanto laureandosi in giurisprudenza, in jus civile, vel canonicum, si presentava una prospettiva ai laureati molto più brillante, giudici, eccetera, che studiava teologia, si doveva accontentare di commentare Pietro Lombardo o di interessarsi delle quisquilie che nel periodo della decadenza della teologia, specialmente già nel secolo XIV, ma particolarmente nel secolo XV, non c'era per questi laureati nessuna prospettiva di carriera e di vivere. No. Guardi, perché? Onorio Terzo, ecco, rientriamo in un argomento in tutte in tutti questi diplomi, esenzioni, immunitate, esenzioni, privilegia. Perché Onorio III, con quella bolla che è stata citata super specula ieri, perché ha concesso i privilegi agli studenti di teologia, cioè di godere di quei benefici che avevano nelle diocesi di origine? Perché? Per invogliare, incoraggiare alcuni ad abbracciare. E sa, un'altra cosa importante che si riscontra a Bologna, si riscontra a Firenze, e a quale categoria appartenevano coloro che studiavano teologia? Agli ordini mendicanti. A qualche altro ordine, come gli umiliati di ogni santo, ma in una forma ristrettissima. E forse in quelle lauree conferite a Firenze del clero secolare, forse che si contavano in questa mano, non cinque. Perché un prete, un sacerdote secolare, preferiva la facoltà di diritto, diventando cancelliere nella curia vescovile, vicario generale e le altre, eccetera, eccetera. Perché la fan, perché la una domanda bellissima. Lei ha fatto allo studium Corriere, allo studium università, solo a questo, perché ieri è stato distinto il fatto di università di Roma dello studium Corriere. No, e in tutti gli archivi di Bologna che io ho consultato per quel periodo, nell'archivio notarile, dove ho trovato questo documento, non c'è assolutamente, ma c'erano nomi piuttosto vistosi per il Collegium Romane Corie, nomi piuttosto vistosi, non ho trovato nessun altro documento, ce l'avrei certamente, pur non interessandomi della facoltà di Roma o dello studium Romane Corie, l'avrei certamente notato. Era permesso. Si interesse. Ci sono anche religiose confessioni mendicanti, quali in alcune, per esempio a Parma, e di Bologna non posso dire pochissimo, in quanto le facoltà che la facoltà di arti segna le proprie lauree soltanto dal 1480. Io ne ho pubblicato un gruppo proprio dal Bronzino, Notizia Doctorum, i laureati. Io ne ho trovato un gruppo che ho pubblicato anteriore, e c'erano anche ecclesiastici. Lei mi dice con quale interesse? Beh, la facoltà di arti ha un interessamento anche per un chierico, anche per la medicina, era consentito. Ecco. No, questo non lo posso dire, credo che fosse una minoranza molto bassa, è una semplice mia impressione, una minoranza, non dico eccezione, ma una minoranza bassissima. No. A Parma, le chiese anche che abbiamo qualcuno, cosa aggiungo? A Bologna detto che non posso dire nulla perché è già un periodo posteriore, posteriore. Ma po'. Ecco, adesso abbiamo ancora un po' di tempo per le domande di un po' più generali. Già parlando della facoltà delle arti, siamo passati ad un altro settore. Robin? Il problema alla signorina interesserebbe sapere la posizione specialmente dei francescani relativamente allo studio della canonistica e in particolare nel 400 e nel 500 per quello che a lei risulta dai suoi studi sulla teologia italiana. Dopo la riforma di Benedetto XVI relativamente allo studio della canonistica degli anglicani. Sentano, francescani, domenicani, agostiniani, gli ordini mendicanti non si sono interessati di diritto, non si sono interessati. Che a proposito, uno studio del studio giuridico ordinis fratrum minorum di un Bertrand Kurzweil, sì, e in principio veramente vi è un interesse per le scienze giuridiche canonistiche, diciamo così, e questo studio che io non ho presente, l'ho letto molti anni fa, dà degli elementi buoni. Quello che è la mia esperienza personale è questo, che nella facoltà di Bologna, nella facoltà di diritto canonico, trovo soltanto un francescano, uno che si è laureato in diritto canonico, Franciscus de Regasis de Bergamo, il quale, signora, tenga ben presente, non era francescano, ma era già vescovo. Allora, siamo a un livello diverso, non è più francescano. Ecco, sì, era. Direi. Un poco. Deve essere verso la metà del 400. Il mio corpulare in Suri Bonognetis do i riferimenti esatti di questo vescovo. A Francisco De Cremona, vescovo di De Cremona, vescovo di Bergamo. A Cremona, vescovo con Bergamo. Soltanto lui ho incontrato. Cioè, si riferiva al fatto che Benedetto XII ha accordato lo studio del diritto canonico ai benedettini e agli agostiniani, ma ha ribadito la proibizione per i cittadini e i militanti. E i militanti. E qualche volta. E quindi è stata applicata. E guardi, è presente questo. E credo a Firenze o a Bologna, in un atto pubblicato, cioè nel registro ordinis, alla fine del 400, precisamente Sansone, il generale Francesco Samson, che ha governato l'ordine per una ventina d'anni, concedit ei facultas studendi ius canonicum, quindi era come una eccezione, una concessione, un privilegio che veniva conferito dal generale di poter studiare diritto canonico. Ma anche questo è un caso singolare, ecco, tranquillamente, così, senza che abbia seguito, insomma. Anche i gesuiti poi in senso non hanno avuto nessun interesse al diritto canonico. C'è una bella differenza, signora, tra gesuiti e ordini messicani, anche nella mentalità, specialmente nella mentalità, specialmente per i francescani, che i gesuiti, si può dire, alla ricchezza dell'ordine, della esattezza, insomma, dei francescani più liberali, sì. Qualche altra domanda? La possibilità di concorrenza, nel posto che si può ora, tra l'altro dimostra questo, voglio dire, no? Come poi di tutti i universitari siano poi chiariti soprattutto dai documenti che scrivi, e come in sostanza è vero che questa specificazione non è mai più la sessualità fondamentale, mi pare che da questo punto di vista la conoscenza della modalità logica sia molto più avanzata di altri settori di studio. Grazie di tutti per questa piazza. La facoltà teologica coesiste con gli studi generali, diciamo pure privati, degli ordini, e in questo caso, certo. Ma no, anche in questo caso, che interesse ha, soprattutto il religioso, perché il religioso, soprattutto per tutte le teologie, o chi si avvia, o chi ha anche la passione di Dio, a non seguire la scuola nel suo ordine, ma piuttosto seguire, diciamo, presso la università, l'università. In sostanza, perché un dominicano dovrebbe andare a studiare, questo sia il caso di concorrenza, la teologia, presso la sede di Bologna della università, della facoltà, quella del 1962, e non in questo ordine. Ah, non c'era un corpo insegnante fuori degli ordini mendicanti, non c'era, era soltanto l'istituto che era composto dai singoli ordini mendicanti, dagli ordini mendicanti e da quei collegi che formavano, che a Bologna c'erano tanti, c'erano 18 mi sembra, 18, per esempio i Celestini, la cattedrale e qualche altro, detto che non mi ricordo della cattedrale, insomma, che formavano i canonici regolari. I canonici regolari non compaiono neppure nelle lauree, no. Erano piuttosto per esempio gli olivetani, esclusi dalla partecipazione alle università. Erano quasi clerici sedetti, insomma, e gli olivetani forma eremitica. E mai possibile, mi sono mandato, poi l'ho chiarito indirettamente, come un sacerdote che arriva in convento così, insomma, luminoso, e mai compaia. Perché? l'ordine olivetano, questa congregazione benedettina, di riforma benedettina, faceva quasi una vita certosina, e quindi non accedevano i propri membri, non accedevano alla facoltà teologica. La facoltà teologica era un istituto fornato, avrà avuto una sede facoltà teologica, dove si riunivano a Firenze, per esempio, la sede era il convento che ospitava quell'anno il decano della facoltà. E allora, quando c'era una donanza, se il decano era un agostiniano, andava il collegio teologico, si riuniva nella a Santo Spirito, e così per i francescani a Santa Croce, i domenicani a Santa Maria la Bella, così. Erano i diversi studi generali che componevano, ma all'università non c'era questo l'insegnamento della teologia. A voi sempre, a Firenze, nel secolo XV. Io credo che a questo punto, anche se si illumina il sole e si fa sperare bene, a questo punto forse sarà opportuno interrompere il nostro lavoro di questa mattina. Un lavoro che ci ha permesso, che credo che ne siamo lieti tutti e ringraziamo il padre Piana, ci ha permesso di avere una visione, sia pure soltanto limitata all'Italia, una visione limitata all'Italia ma globale di un fenomeno universitario, cioè la facoltà di teologia. Ognuno di noi ha probabilmente chiarito una serie di problemi e, ahimè, come succede, avrà aggiunto degli altri problemi. Credo che quindi possiamo chiudere la nostra seduta di questa mattina soddisfatti del lavoro compiuto e riprendere alle 3 con la relazione del professor Pfeiffer di integrazione del humanismo in die deutsche Universität. Ritorneremo naturalmente ancora ai contenuti. Oggi abbiamo visto la teologia che si è, come si inserisce, come si è ripartita, come si è complicata con leggi, eccetera. Questa sera sentiremo in maniera più precisa e fisica i problemi della fisica. Allora, alle 3 oggi. Grazie, professore. Grazie. Nella distribuzione degli insegnamenti, come funzionano le cose? Come si dice dal generale? Il generale poteva cantare il cristiano. No, nell'articolazione della facoltà. Facoltà? La facoltà è un nome. Ma il compito, come si dice? Il decano è una bottina. E viene eletto per del comune del Corriere Teologico. E